era un fisico matematico nel senso più completo e più chiaro del diciamo termine. Infatti la sua matematica spesso non è elegante, spesso è un po', come dire, pasticciona, raffazzonata. Nella sua meccanica celeste si trovano spesso frasi tipo sarebbe facile vedere che, si può facilmente vedere che. Ora, sul fatto che si possa tanto facilmente vedere ci possono essere dubbi. Forse lui aveva effettivamente trovato delle linee che arrivavano da un diciamo ragionamento all'altro, ma siccome non le dice, spesso sembrano intuizioni un po' vaghe. Però dal punto di vista pratico, cioè dell'applicazione alla fisica, questa, come dire, matematica funziona bene, insomma, per l'epoca funzionava bene, poi verrà. Ecco, bisogna tenere presente che siamo ancora prima della grande sistemazione concettuale della matematica, che è del 1821, dal 21 in poi, con i grandi trattati dei matematici dell'Ottocento di Cauchy, in particolare il corso generale di analisi, che è quello grosso modo che sistema l'analisi quasi come la conosciamo adesso. Prima questa cosa non c'era, no? E bisogna dire che i contemporanei però stimavano Laplace un gradino sopra, per esempio, Lagrange, cosa che invece nella, diciamo, percezione contemporanea è un poco diciamo diversa, perché diciamo Lagrange dà dei contributi, diciamo, di rigore matematico e anche di intuizione matematica più forti di Laplace. Però Laplace ha questo grande merito di avere sviluppato la matematica che serviva per, diciamo, risolvere, o perlomeno per avviare a una soluzione, per chiarire meglio questo grande problema, appunto, della stabilità del mondo, del rapporto tra le varie componenti, i vari pianeti del, diciamo, sistema solare. E da questo punto di vista bisogna dire, non si può, diciamo, negare che sia stato, quindi, oltre che un fisico, anche un grande, certamente, matematico. Abbiamo lasciato Laplace nei giorni precedenti, l'abbiamo lasciato, abbiamo detto, abbiamo parlato dei suoi contributi, di quello che ancora oggi in qualche modo rimane di lui nella, diciamo, matematica, insomma, è questa trasformata di appunto Laplace, che è l'incubo di molti studenti di, insomma, ingegneria del primo anno, l'operatore di Laplace, questa strana cosa che significa con un delta rovesciato addirittura, e che serve però appunto, che è, insomma, servito, che ha avviato gli studi sulla. E poi abbiamo invece parlato del suo contributo alla teoria delle probabilità, a questa nuova, questa strana branca della matematica che studia non le, diciamo, certezze, come noi pensiamo che dovrebbe fare la come dire, matematica, ma studia la possibilità che certi dati ci siano, certi altri dati non ci siano. Ma ci rimane da dire qualche cosa forse sul, diciamo, carattere sul un po' di quest'uomo, sul personaggio. Ne abbiamo parlato malissimo, abbiamo detto che era un opportunista, un ambizioso, che era un voltagabbana e che era di una vanità sconvolgente, anche per un'epoca particolarmente vanitosa come era quella della corte napoleonica. Forse c'è qualcosa che salva Laplace? Sì, no, certo, non c'è dubbio che lui fosse, ecco, anzi adesso per dare qualche colpo ancora in questa, diciamo, direzione, volevo leggere un testo breve che lui ha scritto quando aveva, mi sembra, poco meno di 23-24 anni, una sorta di dichiarazione autobiografica, no? E che è una, adesso ve la leggo, è un capolavoro diciamo retorica e disonestà intellettuale interibile. Dice appunto Laplace: ho sempre coltivato la matematica per il mio piacere più che per il desiderio di una vana reputazione di cui non faccio alcun caso, conoscendo invece le cose, questa è proprio tutto. La mia più grande gioia è quella di studiare il cammino percorso dagli inventori, di vedere il loro genio alle prese con gli ostacoli che essi hanno incontrato e che hanno saputo superare. Allora mi metto al loro posto e mi domando come avrei fatto per superare i medesimi ostacoli, e benché questa sostituzione sia spesso umiliante per il mio amor proprio, tuttavia il piacere del loro successo mi compensa largamente di questa piccola umiliazione. Conoscendo la pratica scientifica di Laplace, il quale appunto rubacchiava a destra e a sinistra, è veramente una cosa terribile. Però, ecco, bisogna anche dire che Laplace fu anche capace di grandi, diciamo, generosità. Diciamo, il suo lato più, come dire, positivo era il tipo di rapporto che lui aveva con i giovani. Nel 1807 capitò che una commissione dell'Accademia delle Scienze appunto francese, dovesse esaminare un diciamo lavoro di un giovane Fourier, di cui anche questo sarà un nome che, di cui parleremo più tardi, che oggi si sa insomma che è un nome fondamentale, no? Bene, questo diciamo lavoro viene respinto perché era forse troppo innovativo per l'epoca e un po' disinvolto in certe cose, però conteneva delle grandissime intuizioni sempre su questo tema della trasmissione del diciamo calore, di cui abbiamo già accennato. Bene, in questa commissione c'erano Lagrange, Laplace, Monge e mi sembra Lacroix, e fra questi quattro però diciamo Laplace fu uno di quelli che invece sostenne Fourier e venne poi invece messo in, come dire, minoranza dagli altri, specialmente da Monge, che era un po' invidiosetto, insomma era più importante di lui in quella fase, ma ecco. Ma c'è un altro episodio invece molto interessante, sempre per l'Accademia delle Scienze, qualche anno più tardi, un giovane matematico allora sconosciuto, un tale Biot, presentò un diciamo lavoro su di un argomento sempre connesso alle equazioni differenziali. E quando Lagrange esaminò, appunto Laplace esaminò questo diciamo lavoro, si accorse che questo lavoro era molto simile e aveva soluzioni molto simili a quelle di un suo proprio manoscritto di Laplace, che non era stato ancora pubblicato, perché lì venivano pubblicate in modi diciamo regolari e con molto ritardo, come oggi peraltro, questi diciamo lavori di queste accademie. Allora uno avrebbe voluto pensare che insomma Laplace abbia preso da parte il giudice, guarda, l'ho già fatto io, insomma lascia perdere, fai altre cose. Invece straordinariamente Laplace chiamò appunto Biot, gli disse questa cosa, gli disse guarda, è effettivamente simile a alcune cose che ho preso io, però siccome non sono ancora pubblicate, tu vai avanti su questa strada. E addirittura venne pubblicato per consiglio di appunto Laplace il lavoro di questo Biot e non il suo, insomma. E questo segnò l'inizio della carriera scientifica di questo Biot, che è un matematico minore ma pur sempre importante dell'epoca. Rara generosità. Rara generosità, interesse. Veramente. E questo direi che fa onore a un personaggio come Laplace. Si riconcilia un po' e fa un po' da contraltare a queste altre cose. Niente, per il resto appunto vengono gli anni della restaurazione, e torna il re, torna Luigi XVIII, Laplace con la solita disinvoltura gli giura subito fedeltà, riprende il suo posto alla Camera dei Pari in quanto appunto marchese di Laplace, e svolge ancora qualche lavoro tardo, lavora come abbiamo visto al quinto e ultimo volume della sua Meccanica Celeste. Nel 1816 presiede una commissione di riorganizzazione della Scuola Politecnica, di cui oggi non abbiamo parlato ma di cui parleremo le volte prossime, che è una istituzione fondamentale nel clima scientifico francese e direi europeo di quegli anni. E finalmente il 5 marzo del 1827, curiosamente un secolo dopo esatto la morte di Newton, appunto muore a 78 anni, e la tradizione ancora una volta gli attribuisce una frase finale, un'ultima, una espressione del suo ultimo pensiero, che è anche questa un capolavoro di retorica, e che è, come capitava spesso al sud di Laplace, una copiatura di qualcosa che aveva già detto Newton in tempi precedenti. Pare che abbia detto prima di morire: quello che sappiamo è poco, quello che ignoriamo è immenso. E così se finisce la vita e la parabola terrena di Pierre-Simon Laplace. Era la quinta ed ultima puntata di Pierre-Simon Laplace l'opportunista, raccontato da Antonio Caronia. Appuntamento a lunedì prossimo con un altro protagonista di Scienziati, ancora uno sforzo, la rivoluzione francese attraverso la scienza del tempo.